Roma, 27 giugno. Tutto può essere vero in questo spaventoso 1940. Tutte le cose più assurde e disumane sono divenute realtà. E intanto l'Europa dovrà rassegnarsi a vivere senza più la Francia. Che sarà di lei, povera Europa, straziata e dilaniata? Ricordo che quando ero bambina studiavo sui libri di geografia che la Francia era come un istmo in Europa. E congiungeva fra loro i popoli di più svariata stirpe e più contrastante carattere. Ponte di passaggio fra il Mediterraneo e l'Atlantico, rendeva meno isolani gli inglesi e meno africani gli spagnoli. Conciliava la latinità fiammeggiante dell'Italia con il gelido fanatismo germanico. E allora io preferivo immaginare la Francia come il grande cuore di Europa, il quale con il suo battito di affettuoso desiderio faceva fluire attraverso quel contorto aggrovigliato continente il sangue vivo di tutti i popoli. E adesso come farà a vivere l'Europa senza più il suo nobile cuore? Ma certamente i tedeschi, abilissimi nelle arti meccaniche, le costruiranno un bel cuore automatico. E così sarà meglio perché avrà i palpiti più regolari. E allora l'Europa si irrigidirà, a un tratto, in una compattezza regolare e ben ordinata. I suoi tentacoli spasimanti cesseranno di risucchiare inquietudine e mobilità dall'oceano, che esterrefatto si ritrarrà dall'odioso contatto di questo gelido cimitero europeo e riporterà la sua calda corrente nella giovane terra d'America. Egoista e avida questa giovane figlia d'Europa. Ella, durante l'agonia di sua madre, invece di porgerle aiuto, va meditando come possa riprendere per sé le calde acque che ancora la congiungevano alla madre lontana. Ma riprendile pure, America, le calde acque del tuo golfo. I morti non hanno bisogno di calore, e tantomeno i tedeschi.